Perfetto giorno di Simone Spezia. Uragano Irma, sono 10 le vittime, case distrutte sulle isole dei Caraibi, allarme in Florida, potrebbero essere colpite 37 milioni di persone, dicono le Nazioni Unite. Medici senza frontiere contro l'Unione Europea, complice delle torture e degli stupri nei campi libici. Spento nella notte l'incendio a Mortara, nel Pavese, scuole chiuse, resta il fumo e l'odore di plastica, analisi in corso per la diossina. Se migranti o profughi fanno l'elemosina, multe alle cooperative che li accolgono, decide un sindaco piemontese. I pensionati avranno la vacanza pagata dal comune, succede a Comitini, il paese siciliano con 1000 abitanti e 70 dipendenti comunali. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero come sempre per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la pagina Facebook di Radio 24, così come la pagina Facebook di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta video, quindi ci potete vedere e potete, se volete, commentare anche là. In apertura dunque gli aggiornamenti sull'uragano Irma. In questi suoni potete sentire, per quanto non riusciamo a farvela percepire per radio, evidentemente, la violenza dei venti e delle piogge che stanno investendo il sud-ovest del continente americano. Quasi il 90% delle abitazioni nelle isole di Barbuda sono state colpite, 1.400 persone senza casa, un bimbo di 2 anni è morto, mentre a Saint Martin si contano 8 vittime e 21 feriti. Blackout a Puerto Rico a causa delle raffiche di vento e delle intense piogge. Il presidente americano Donald Trump ha avviato una serie di telefonate con i governatori degli stati dove è atteso l'uragano. The storm is massive and the storm surge is predicted will go for miles. This is a massive storm. E quella che sentite è la voce del governatore della Florida, Rick Scott. È stata avviata l'evacuazione di Miami Beach. Secondo le Nazioni Unite, Irma potrebbe colpire 37 milioni di persone. Il Fondo Monetario Internazionale si è detto, tra l'altro, pronto ad aiutare i paesi colpiti. Queste le cronache per il momento da Irma e poi vi aggiorneremo nel corso di questa giornata. Noi restiamo intanto all'estero per parlare della Cina e della crisi coreana. La Cina ha presentato una seria protesta formale con la Corea del Sud per l'installazione di 4 nuove batterie antimissili americane nel sito di Seongju, a 300 km a sud di Seul, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Geng Shuang, secondo il quale la posizione di Pechino è ferma, chiara e consistente. Nel frattempo, ovviamente, la tensione resta alta. È confermato, la bozza preparata dagli Stati Uniti per una nuova risoluzione ONU prevede di inasprire le sanzioni contro la Corea del Nord fino a un embargo sul petrolio e a un bando alle assunzioni e pagamenti di lavoratori nordcoreani all'estero. L'iniziativa americana prevede anche il congelamento di denaro e asset che facciano capo al leader Kim Jong-un e ai suoi più stretti collaboratori e restrizioni all'aerolinea nazionale Air Koryo. Su una linea di maggiori pressioni su Pyongyang hanno espresso il loro accordo il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, entrambi a Vladivostok per un forum economico. Ben difficile che Abe oggi converta Putin, che ha già dichiarato inutile e inefficace il sistema sanzionatorio. Washington vorrebbe far votare la mozione lunedì, ma pare probabile un rinvio. Intanto, in Corea del Sud è stato completato il dispiegamento del sistema antimissilistico più avanzato al mondo, il THAAD, che Moon aveva parzialmente congelato dopo l'opposizione della Cina. Ci sono state violente proteste con scontri tra polizia e dimostranti, in quanto molti residenti della località di Seongju temono di diventare bersagli dei missili del nord. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. Siamo al fronte dei migranti, all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia che riguarda la Corte di Giustizia Europea, che riguarda i ricollocamenti, interviene tra l'altro anche Medici Senza Frontiere. C'è il tema dell'immigrazione al centro dei colloqui, in programma oggi per Paolo Gentiloni in Slovenia e nella Repubblica Ceca. Una doppia trasferta, quella del Presidente del Consiglio, che arriva all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha dato ragione all'Italia e ha respinto i ricorsi presentati da Slovacchia e Ungheria contro i ricollocamenti dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese in Grecia. Una decisione che ora dovrà essere rispettata da tutti i partner europei, ha detto il Premier parlando a Lubiana dopo l'incontro con il primo ministro sloveno Cerar. Con una dura lettera, intanto, Medici Senza Frontiere oggi accusa i governi europei di alimentare il business della sofferenza, pagando la Libia per bloccare i migranti diretti verso il vecchio continente. In migliaia sono trattenuti arbitrariamente in centri di detenzione, dove sono sottoposti ad abusi che nessun paese europeo dovrebbe avallare, denuncia l'organizzazione non governativa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo agli aggiornamenti sulla morte della bimba per la malaria. Sarà l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Verona a chiarire le cause del decesso della piccola Sofia, la bimba di 4 anni morta per malaria cerebrale agli ospedali civili di Brescia dopo essere arrivata in coma dal Santa Chiara di Trento. E proprio al nosocomio di Trento è stato appurato che il parassita che ha ucciso Sofia è lo stesso che ha fatto ammalare due bambine di 4 e di 11 anni di ritorno da un viaggio in Africa, ricoverate in pediatria negli stessi giorni di degenza della piccola. La task force che sta indagando sta anche valutando con attenzione la possibilità che la bambina possa essere stata contagiata mentre era in vacanza a Bibione. Intanto la Procura di Trento indaga per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Sofia e punta ad accertare se siano stati seguiti tutti i protocolli prescritti per le cure e a ricostruire con precisione tutte le tappe cliniche che hanno portato al suo decesso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo adesso all'incendio scoppiato all'alba di ieri nella ditta Erei di Bertè, quella che si occupa di smaltimento dei rifiuti speciali a Mortara, e siamo in provincia di Pavia. I vigili del fuoco nella notte sono riusciti a spegnere l'incendio dopo una giornata nella quale alte colonne di fumo si sono sollevate appunto dalla ditta, e torna ai nostri microfoni Angela Alberici, che dirige il Dipartimento Provinciale dell'ARPA per l'area Lodi Pavia. Alberici, buongiorno. Buongiorno. Ci dà un quadro della situazione? Ma il quadro è ancora della fase emergenziale, nel senso che le fiamme sono più basse, ma non è che completamente il cumulo di rifiuti è spento. E stanno man mano smassando i vigili del fuoco e raffreddandolo e spegnendolo completamente con getti d'acqua, man mano bennata per bennata. Quindi questa è un po' la situazione. Anche questo modo di spegnere l'incendio causa fumo, ovviamente, perché mandando acqua su materiale caldo inevitabilmente si crea vapore, e il fumo è abbastanza bianco, però rispetto alla fase emergenziale è ancora attivo. E per quanto riguarda invece la qualità dell'aria, avete già fatto delle analisi, siete in grado di dirci qualcosa di più su quello che si è sparso, per così dire, tra Mortara e le campagne? Le centraline fisse della qualità dell'aria, che misurano gli inquinanti che hanno dei limiti di legge, non rilevano valori anomali particolari. Quindi, diciamo, in qualche modo questa situazione è rassicurante. Per ciò che riguarda i campionatori ad alto volume che fanno i microinquinanti, le diossine e il IPA, questi bisogna aspettare i risultati analitici, quindi c'è un lasso di tempo inevitabile. Quando arriveranno? Io credo sabato, però spero sabato. Speriamo sabato, anche per rassicurare eventualmente gli abitanti di Mortara. Grazie intanto ad Angela Alberici, che dirige il Dipartimento Provinciale dell'ARPA per l'area Lodi Pavia. Qualche ascoltatore ci scrive che potrebbero essere anche degli incendi criminali, o in alcuni casi potrebbero essere degli incendi che vengono appiccati perché costa meno dar fuoco a queste cose che andare a smaltire i rifiuti, dividerli e smaltirli. Questo naturalmente non possiamo saperlo, di questo si occupa la magistratura, però come ricorderete di questa vicenda nella precedente stagione di Effetto Giorno ce ne siamo occupati, soprattutto in relazione a Roma, perché si videro parecchi incendi di depositi di rifiuti. Allora, noi adesso andiamo a parlare di consumi, perché è stato presentato questa mattina il tradizionale rapporto della COP, e lo ha seguito, come ormai da tradizione anche questo, la nostra Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. Allora, iniziamo col dare il primo dato del rapporto, il tradizionale rapporto COP, che, come dicevi, fotografa le abitudini di spesa e di vita degli italiani. Il primo dato, malgrado tutto, la ripresa c'è, quindi i consumi tengono, più 1,2% la crescita che andrà a registrarsi a fine 2017, ma i consumi cambiano, perché a cambiare sono soprattutto gli italiani. Nel carrello della spesa sono in ripresa i consumi alimentari, più 2,9%, il dato della grande distribuzione, con crescite considerevoli confermate per il cibo bio, il cibo integrale, i cibi pronti e i prodotti alti di gamma. Il cibo, ci rivela il rapporto COP, è diventato quasi una terapia. Ecco perché crescono i cibi dalle proprietà salutistiche che valgono ormai il 10%, pensate, dei consumi alimentari, e qui si registrano numeri incredibili, più 78% per l'avocado, più 72% nelle vendite per lo zenzero e poi più 174% per un prodotto come il latte ad alta digeribilità. E poi l'elenco è lungo, i semi di lino, i semi di zucca, solo per citarne alcuni. Ma il cibo è anche moda, passa molto dai social network, anche questo testimonia il rapporto, e è finita la caccia agli sconti, ai discount, questo è un dato significativo, quindi il downgrading della spesa è finito, perché c'è una grande attenzione anche alla qualità del cibo, che rivela, testimonia quella che il rapporto definisce una vera e propria ossessione per il benessere individuale degli italiani. E quindi crescono le attività sportive e poi rallenta il consumo di fumo, di sigarette e di alcol, e poi c'è una maggiore attenzione ai trattamenti estetici. Per la cura del corpo, pensate, gli italiani spendono 10 miliardi di euro all'anno, meno 8% per l'uso dell'auto, più 8% speculare, quello invece della bicicletta. Crisi economica ed esclusione sociale, emerge però dal rapporto, hanno fatto crescere le paure degli italiani, immigrazione e terrorismo in testa, più 20% negli ultimi 10 anni per la spesa per gli antidepressivi, e l'Italia, chiuderei, Simone, con una nota politica, è il paese europeo in cui Trump è il leader politico maggiormente apprezzato. A voi. Grazie dunque a Maria Luisa Pezzali per questo punto sul tradizionale rapporto della COP. Siamo alla Brexit, oggi conferenza stampa del capo negoziatore europeo Sergio Nava. Buongiorno, in corso proprio in questi minuti a Bruxelles la conferenza stampa del capo negoziatore Michel Barnier sulla Brexit, conferenza stampa improvvisa nel mezzo di negoziati non esattamente semplici. La Commissione si sta focalizzando oggi in particolare sulla questione del confine nordirlandese, indicando la necessità di continuare a tutelare e consolidare l'accordo del Venerdì Santo dopo il ritiro del Regno Unito dall'Unione, così come di continuare a riconoscere la zona di libera circolazione tra i due paesi, Irlanda del Nord e Irlanda. Bruxelles ha messo nero su bianco che nella prima fase dei negoziati intende raggiungere un'intesa con Londra sulle conseguenze del suo ritiro sull'accordo del Venerdì Santo e sulla zona di libero spostamento. Solo successivamente la discussione si sposterà sulla ricerca di soluzioni flessibili per evitare l'insorgere di una frontiera fisica in Irlanda. Rischio concreto nel caso la Gran Bretagna sospendesse gli attuali accordi doganali con l'Europa. Intanto ha preso il via oggi anche il dibattito a Londra, la Camera dei Comuni, sulla legge quadro che revoca la normativa europea, il Brexit Repeal Bill. Quello che sarebbe dovuto essere un semplice passaggio formale rischia però di trasformarsi in un calvario per la Premier May. I laburisti intendono votare contro il provvedimento e sperano in una ribellione dei deputati conservatori filo europei. Sempre più forti sono le crepe nell'esecutivo britannico, dove i ministri più tiepidi verso la Brexit non accettano la probabile stretta sull'immigrazione annunciata in settimana dal quotidiano Guardian. È tutto. E grazie anche a Sergio Nava per questo aggiornamento. A chiudere questa prima parte della trasmissione, come ormai stiamo facendo sempre in questi giorni, andiamo a Venezia per la mostra del cinema e per sentire che cosa ci racconta la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, ciao, buongiorno. Ciao Simone, beh, a Venezia è finalmente il giorno di una donna regista in competizione, Vivian Ku con Gli angeli vestono di bianco. La storia, insomma, si svolge in una cittadina di mare, due studentesse vengono assalite in un motel da un uomo di mezza età, un adolescente che lavora alla reception è l'unica testimone ma non vuole parlare, e nel film si capisce perché. Intorno in concorso torna anche Abdelatif Kechiche con Make Tour, My Love, Canto 1, la proiezione questa mattina ha diviso qualche applauso e qualche bu, ma il film dura 3 ore e questo rende, diciamo, le reazioni sempre più estreme. È tratto da un romanzo di François Bégodeau, è la storia di un ragazzo aspirante sceneggiatore che vive a Parigi, per l'estate ritorna nella sua città natale, nel sud della Francia, ritrova gli amici, la famiglia e gli amici d'infanzia. Fuori concorso invece il film di Silvio Soldini, Il colore nascosto delle cose, mi fa piacere parlarne perché c'è già domani nei cinema. È la storia di Teo, Adriano Giannini, quarantenne, eterno ragazzino, che si innamora di Emma, che vive con normalità, con pienezza, la sua vita da non vedente. Emma è Valeria Golino, l'abbiamo appena incontrata. Ho camminato per settimane bendata, non solo a casa ma per la città, con un'altra persona, con la mia coach che mi seguiva perché non mi facessi male. Per me è stato una parentesi della mia vita, capire che cosa vuol dire per queste persone il coraggio che ci vuole, come ritrovarsi geograficamente nei posti, come usare il bastone, dal suono della voce, capire se il tuo interlocutore è amichevole o è ostile, come riuscire anche semplicemente a posare gli occhi su un'altra persona senza vederla. E oggi sarà anche il giorno di Brutti Cattivi, un altro film in cui si ha a che fare, insomma, con delle disabilità, farà scalpore perché finalmente si parla di disabili che fanno i criminali. Molto divertente. Per ora da Venezia è tutto. E grazie anche alla nostra Marta Cagnola. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizia il nostro giro per l'Italia. Beh, ormai la vicenda la conoscete perché l'abbiamo accennata praticamente tutti nell'arco della mattinata. Ed è la vicenda di una ragazza che è andata in tribunale, una ragazza di 26 anni che è andata in tribunale perché? Perché il padre aveva smesso di passarle i soldi per gli studi, visto che era ampiamente fuori corso. Cosa è successo? Che il tribunale ha deciso che il padre deve comunque mantenerla, nonostante abbia 26 anni, ma si arriva a molti più anni di quei 26, stando almeno a quello che leggiamo nella stessa sentenza. Ne parliamo tra poco con un esperto, poi andremo a Borgo Sesia. Vi abbiamo raccontato spesso del problema del racket dell'elemosina. Il sindaco di Borgo Sesia ha deciso di fare una cosa particolare: le multe per chi viene pescato a fare l'elemosina vengono mandate direttamente alle coop che accolgono rifugiati e profughi. A tra poco. Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp e la diretta video sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24. Anche potete, se volete, commentare anche là. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'uragano Irma, delle accuse di Medici Senza Frontiere all'Europa per quanto riguarda i migranti, dell'incendio a Mortara nel pavese dei negoziati per la Brexit, della mostra del cinema di Venezia. E adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da questa vicenda che arriva da un giudice di Pordenone, ma da quel che abbiamo letto ha origine esattamente là. È la vicenda di una ragazza di 26 anni che porta, come vi abbiamo raccontato poco fa, in giudizio il padre perché il padre vuole smettere di darle dei soldi. Perché dice, beh, insomma, io ti mantengo a studiare a Trieste. Tu non sei in corso, non vuoi studiare e quindi io smetto di passarti i miei quattrini. Parliamo di una coppia, della figlia di una coppia separata. C'è un primo grado di giudizio che lo condanna a pagare una cifra che è superiore anche al suo stipendio. C'è un secondo grado di giudizio che ridimensiona tutto questo. Nella sentenza leggiamo: e allora, pur a fronte di un non efficace impegno di Carlotta nello studio e nel lavoro, dato certo e sicuro che non le rende onore e che ella dovrà impegnarsi a superare, si deve riconoscere la possibilità di una certa inerzia nella maturazione che porta all'indipendenza dei giovani ragazzi. Io alla sua età mi sposavo e con Anna a 27 anni facevamo il primo figlio. Però, diciamo che ci può stare. Carlo Rimini, avvocato, esperto in diritto di famiglia, docente alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Luigi Bocconi e docente anche di diritto di famiglia all'Università di Pavia. Professor Rimini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io sono... Io a quell'età lì, per dire la verità, ero già ricercatore universitario. Ecco. Il che però non assicura, come ben sappiamo in Italia, non assicura assolutamente uno stipendio. Allora andava meglio. Allora andava... stava decisamente meglio. Però insomma, sai, poi ci sta anche la fortuna, tutto quello che vogliamo. Non c'è il minimo dubbio. Tutto quello che vogliamo. Allora, professor Rimini, ci dice un po' che se è un caso particolare, perché non mi sembra in realtà la stessa. Nella stessa sentenza si ricorda, guardi, io, a me ha colpito tantissimo. Nella stessa sentenza si dice che la giurisprudenza di merito milanese ha fissato questo limite in 34 anni, cioè a 34 anni devo continuare a mantenere mio figlio se non è in grado? Allora, questa vicenda è assolutamente ordinaria nel suo sviluppo davanti ai tribunali italiani. Lei ha fatto benissimo prima a precisare che in realtà è una vicenda che nasce come un fungo da un conflitto fra genitori separati e probabilmente anche divorziati. Quindi il problema vero che i nostri giudici si trovano quotidianamente ad affrontare e che più o meno risolvono sempre allo stesso modo è qual è il limite di età fino al quale il padre deve continuare a versare, generalmente alla madre, che è il genitore convivente, l'assegno di mantenimento per il figlio. Questo è il problema. I giudici italiani sono molto tolleranti e questa sentenza si inserisce perfettamente in questa linea di grande tolleranza nei confronti dell'inerzia, della fatica dei figli ad inserirsi nel mondo. Sì. Quindi è abbastanza. Sì, diciamo che qua, professor Rimini, se mi consente, non è che c'è una fatica a inserirsi nel mondo del lavoro, c'è una che è fuori corso e non studia. Abbia pazienza. Diciamo, questa tolleranza è abbastanza normale. Qualche volta i giudici dicono: ma il conflitto genitoriale ha distratto il figlio, ha fatto sì che avesse dei problemi ad applicarsi allo studio. Sicuramente c'è molta tolleranza da parte dei giudici italiani. All'estero, dopo i 18 anni, è considerato inconcepibile che un padre continui a versare l'assegno oltretutto all'altro genitore convivente. I rapporti vengono gestiti direttamente tra padre e figlio e l'idea è che un figlio ha diritto di essere mantenuto agli studi. Ma se non studia, sì, non studia. Cioè, quindi nei limiti della decenza, per così dire. Nei limiti della decenza. Sicuramente la giurisprudenza italiana ha un atteggiamento molto tollerante. Qualche volta questa tolleranza è arrivata ad estremi sinceramente inconcepibili. Lei ricordava il caso del mantenimento a 34 anni, in quel caso peraltro si trattava di un aspirante avvocato che non riusciva a diventare avvocato, essendo continuamente respinto agli esami di ammissione alla professione, nel caso dei 34 anni. In questo caso devo dire, al di là delle affermazioni di principio, che poi il giudice, almeno da quello che si legge dai giornali, e io conosco la vicenda come la conoscete, sì, voi e come la conoscono i nostri ascoltatori solo dai giornali, il giudice ha comunque voluto dare un chiaro messaggio, sì, alla ragazza e ha in misura molto consistente ridotto l'assegno che il padre era obbligato a pagare sulla base della... Sì, sì, l'ha ridotto di molto, l'ha portato a 350, sì, complessivi sono 500 euro mensili, insomma questa... Mentre questa... prima erano, se non ho letto male, 1500, sì, il che più o meno significa, sì, ragazza mia, non è che puoi continuare a pensare di vivere con il supposto tenore di vita di tuo, sì, padre, poi probabilmente ci sarà stato un contrasto, come sempre c'è, sulle effettive ricchezze del padre, ma comunque tuo padre a un certo punto, sì, chiude i rubinetti e, sì, il giudice finisce col comportarsi come i genitori responsabili si comportano con i figli anche in assenza di un, sì, conflitto coniugale, sì, cioè a dire: guarda, io comincio a ridurre. Non è che ti chiudo il rubinetto dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera, però intanto... Quindi alla fine questo giudice, come dire... Rispetto a quello di Milano dei 34 anni, diciamo... Rispetto a un atteggiamento di molta tolleranza nei confronti degli assegni ai figli di genitori separati e della loro durata temporale, questo giudice lancia un messaggio che non consiste nell'abolizione dalla mattina alla sera dell'assegno, ma di una progressiva riduzione, che è probabilmente anche un modo abbastanza ragionevole di comportarsi. Se fermo restando che forse se nella nostra giurisprudenza cominciasse ad esserci una riflessione anche su questo, in generale sulla sull'entità dei diritti dei figli e sulla loro durata, questo forse sarebbe benvenuto. Si è molto discusso, tutti lo sanno, dei diritti del coniuge negli ultimi mesi. Diciamo che ciò che la giurisprudenza italiana toglie al coniuge come diritto improprio per sé, lo dà come diritto per il figlio. Cioè, tanto la giurisprudenza italiana sta togliendo al coniuge, sempre più severa nei confronti del coniuge, tanto più diventa più permissiva, per così dire, la tolleranza nei confronti dei figli. Io la ringrazio, grazie all'avvocato Carlo Rimini, lo ricordo, esperto in diritto di famiglia, docente alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Bocconi e docente anche all'Università di Pavia, per essere stato con noi. Poi giustamente ci ricorda qualche ascoltatore scrivendoci via WhatsApp, via SMS, via Facebook. Poi alla fine questa ragazza dovrà anche magari trovarsi qualche lavoro, un lavoro come cameriera o cose di questo genere. Io non so, io mi sentirei abbastanza in imbarazzo anche in una situazione di questo genere. Però ognuno ha la sua etica e il suo modo di vedere le cose. Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Per parlare di una questione della quale ci siamo già occupati in realtà, però non in Piemonte ma in Liguria. Il punto qual è? Il punto sono le persone che vengono accolte nelle strutture, che possono essere di cooperative ma anche non solamente di cooperative, parliamo di migranti, profughi, richiedenti asilo, e che poi nell'arco della giornata si spostano, in questo caso all'interno della regione, spesso a Genova quando ne abbiamo parlato, per fare l'elemosina. Un problema in realtà per le stesse cooperative, che dicono: questo non è un carcere, io non li posso tenere dentro e non è nemmeno corretto che vadano a chiedere l'elemosina perché li manteniamo noi, in sostanza. Lei ha deciso per un'iniziativa particolare, multerà direttamente le cooperative, ho capito bene? Esattamente, noi siamo esasperati da questo fenomeno simile a quello che lei ha già descritto, per il quale dai comuni limitrofi, dove ci sono dei CAS o degli SPRAR, questi profughi, migranti o richiedenti asilo, qualsivoglia, si spostano alla nostra città per andare a mendicare fuori dalla chiesa o fuori dai supermercati. Noi interveniamo con i vigili urbani, li identifichiamo, spesso scopriamo che sono appunto migranti e la cooperativa viene a riprendere. Quindi, per quello che mi riguarda, è un comportamento scorretto da parte della cooperativa, che incassa una retta giornaliera, che dovrebbe fare attività e progetti con queste persone, dovrebbe anche garantire una vigilanza, invece li lascia andare altrove, anche in comuni limitrofi come nel mio, per fare questo tipo di attività che infastidisce la gente e poi che comunque comporta dei problemi sul territorio. Sì, Tiramani, in realtà l'obiezione che fanno le cooperative è quella che le dicevo un istante fa, dicono: insomma, noi non è che abbiamo forze di polizia, queste persone non sono dei prigionieri, non sono dei carcerati, sono in queste cooperative, è il posto nel quale li accogliamo, nel quale dormono e via dicendo, ma non è che possiamo imprigionarli dentro le stanze, quindi quando vanno fuori non è che le cooperative possono avere il controllo, o no? Ma io su questo ho da obiettare, perché all'interno del nostro comune vi è un centro profughi, i quali si comportano in maniera corretta. Anche qui bisogna fare distinzione tra cooperativa e cooperativa. Ci sono dei veri e propri centri di aggregazione, businessmen di questo settore, dove forniscono abbigliamento, danno loro da mangiare e poi viva Dio, ognuno per la sua strada, non creano nemmeno progetti, non coinvolgono in nessun tipo di attività, perché non è normale che magari la stessa persona viene identificata 10 volte in 10 giorni. Allora io mi dico, oltre che vi richiamiamo, oltre che vi segnaliamo che una persona ben precisa mendica sempre fuori da un determinato supermercato, evidentemente anche voi non sapete fare il vostro lavoro. Ecco. Sì. Da 250 fino a 1500 euro e, tra l'altro, segnalazione al prefetto. Ultima domanda che le voglio fare, Tiramani, è quella che ci scrive un ascoltatore via WhatsApp al 349-238-6666 e dice: a che titolo multa le cooperative? Ossia, tecnicamente, se la difesa delle cooperative è quella che le dicevo io, come fa a multarle? Cioè, dal punto di vista tecnico, non teme che ci possano essere ricorsi, possa essere bocciato e via dicendo? No, io su questo sono molto tranquillo, perché prima di emettere questa ordinanza, non è un'ordinanza campata in aria, è stata anche vista insieme al prefetto, il quale, esasperato anche lei dal comportamento delle cooperative, ha validato questa procedura. Quindi dal punto di vista giuridico siamo assolutamente a posto. Ritengo che le prefetture che danno bandi di gestione a queste cooperative, a questi centri di accoglienza, anche loro, attraverso questi strumenti che noi sindaci possiamo adottare, possono fare una selezione tra chi effettivamente fa una cooperazione seria e chi invece mercanteggia semplicemente su queste persone. La ringrazio, Paolo Tiramani, grazie, sindaco di Borgo Sesia, per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci spostiamo in Sicilia, in un comune piccolissimo, piccolissimo, ha meno di 1000 abitanti. E però è un comune che ha 70 dipendenti comunali, quindi una percentuale elevatissima. E nonostante questo, il sindaco ha deciso che manda i pensionati in vacanza a spese del comune stesso. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli partendo da una notizia appena battuta dalle agenzie. Il Veneto ha deciso di sospendere il decreto di moratoria di 2 anni per l'applicazione delle norme sui vaccini e quindi, da quel che capiamo al momento da questa informazione, in Veneto il decreto vaccini si applicherà così com'è. Vedremo come sarà questa questione più avanti nei dettagli. Gli altri titoli: l'uragano Irma, sono 10 le vittime, potrebbero essere colpite 37 milioni di persone, dicono le Nazioni Unite. Medici Senza Frontiere contro l'Unione Europea sui migranti, complice delle torture e degli stupri nei campi libici. È stato spento nella notte l'incendio a Mortara nel Pavese, scuole chiuse, resta il fumo e l'odore di plastica, analisi in corso per la diossina. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. E dunque, vi abbiamo dato poco fa la notizia del Veneto che ha deciso di allinearsi alla normativa nazionale per quanto riguarda il decreto vaccini. C'è anche il comunicato del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che dice: apprendiamo con soddisfazione di questa decisione, appunto, da parte della Regione Veneto, che dunque ha cancellato la proroga che aveva concesso per adeguarsi al decreto vaccini. Andiamo nell'Agrigentino adesso, in Sicilia, a Comitini, e siamo in linea col sindaco Nino Contino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata per questo, perché lei ha deciso di fare un'iniziativa particolare, cioè pagherà le vacanze ai pensionati del paese, ho capito bene? No, ho capito male. No. Siamo noi giornalisti che abbiamo malinterpretato. Assolutamente, non l'avete interpretata. Probabilmente la notizia è arrivata un po' distorta. Sì, noi periodicamente organizziamo dei soggiorni climatici per gli anziani, come organizzano tantissimi comuni in Italia. Sì. Quindi tra settembre e ottobre un gruppo di anziani, tra le persone che faranno domande, che hanno i requisiti, parteciperanno quindi a un soggiorno climatico di 7-8 giorni. Il soggiorno climatico. E che cos'è? Dove si svolge questo soggiorno climatico? I soggiorni climatici si svolgono in aree che vengono individuate anno per anno, a volte anche in centri termali. E noi facciamo periodicamente, quindi scegliamo gli uffici, il personale che si occupa di organizzare questi tipi di programmazione, quindi individuano un'area, quindi con i doni, i bandi di gara vengono... Ma per esempio dove sono andati in passato? In passato sono state nelle zone della Toscana, sono state in Veneto. Sì. No, perché mi scusi, Comitini a pochi chilometri da Agrigento, come dire, c'è tutto il mare là davanti. Non so, insomma, la possibilità di un soggiorno climatico in Sicilia non è presa in considerazione. Certo, no, è stato pure fatto in Sicilia diverse volte. Vedi che la Repubblica in Italia esiste dal 1940 e oltre. Quindi da allora ad oggi sono state fatte soggiorni climatici dappertutto. Quindi sono state fatte pure in Sicilia. Cioè, dall'immediato dopoguerra, praticamente dall'immediato dopoguerra, soggiorni climatici da comitini in varie parti d'Italia. Da tutta l'Italia, tutto il mondo sono stati programmati. Se lei va sui siti dei vari comuni, io ho avuto modo di accedere ai siti, tutti i comuni, quasi tutti organizzano i soggiorni climatici. Quanto vi costa? Quanto vi costa, sindaco? Ma su dai 40 anziani costa, orientate considerando che esiste la compartecipazione al soggiorno, sì. intorno agli 8.000 euro. Torno, per tutti quanti? Sì, certo. Ah, vabbè, ma non è una cifra pazzesca. No, perché a noi è un po' impressionato, perché noi sappiamo che il suo comune è balzato all'onore, o meglio all'onere delle cronache, per questo enorme numero di dipendenti pubblici che ha, no? Di dipendenti comunali, sì, 67 sì, perché... su 970 abitanti. Quanti sono gli abitanti di Comitini? Gli abitanti sono 976 ad oggi. 976. Sì, e noi abbiamo ad oggi abbiamo 12 dipendenti pubblici effettivi storici, e poi il 44 sono dei precari, tutto sommato non sono dipendenti, che il comune operano nel comune da circa 20 anni, che fa più o meno un 7% della popolazione. Quanto? Un 7-8%? Sì, certo, un numero sì. Elevato, sì, ma intanto sono situazioni che ci troviamo, sono programmazioni che ha fatto lo Stato, che giustamente i sindaci qua in Sicilia e adoperano un po' i decreti e le norme per mantenere i posti di lavoro. D'altronde, un periodo in cui c'è carenza lavorativa, i sindaci che si spendono per cercare di mantenere. Mi scusi, sindaco, già che ci siamo, ma che fanno 60 dipendenti comunali a Comitini? Guardi, 60 dipendenti comunali a Comitini, io sono sindaco, ho fatto il sindaco per 10 anni, adesso è il terzo mandato. In questo, che fanno? Durante il mio mandato io praticamente ho fatto un po' specializzare tutti questi lavoratori, ho fatto quello che in altri comuni non fanno, praticamente gli altri comuni i servizi vengono dati dando la gestione all'esterno, a ditte esterne. Cioè, quindi non so come dire, raccolgono la spazzatura, sistemano i giardini, sistemano tutto, però non diamo appalti all'esterno, noi tutti i servizi ce li garantiamo con i nostri lavoratori. Ci sono dei comuni che la raccolta, lo spazzamento, eccetera, lo fanno affidando a delle ditte. Affidando all'esterno? Noi invece lo facciamo con i nostri lavoratori, che costano molto meno, e sono lavoratori a 20 ore settimanali, non sono a 36 ore. Allora, sono dei servizi che riusciamo, cioè abbiamo avuto la possibilità di mantenerli, e noi li facciamo lavorare per dare servizi ai cittadini. D'altronde ogni sindaco spera di dare servizi ai cittadini. La ringrazio. Grazie a Nino Contino, sindaco di Comitini, provincia di Agrigento. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.